Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che cos'è un getter? In inglese la parola tradotta letteralmente significa assorbente. Invece, nel mondo della fabbrica, della manifattura a valore aggiunto, un getter è un componente utilizzato nelle tecnologie del vuoto per evitare la persistenza di gas residui allo stato libero, dove invece è necessario mantenere uno stato di vuoto. Ad esempio, i tubi catodici dei televisori, che devono essere appunto totalmente vuoti. C'è un'azienda che prende il nome dal getter, della Saez Getter, che è un campione della tecnologia made in Italy. Questa azienda è nata 70 anni fa per cavalcare il boom dei televisori e fino al 2008 si è concentrata nella produzione di getter che, oltre che per i televisori, sono anche stati impiegati per usi diversi. Poi, a partire dal 2008 in poi, si è specializzata in tutta una serie di produzione ad altissimo valore aggiunto, per esempio le leghe a memoria di forma oppure i polimeri funzionali. Oggi vende in tutto il mondo, per esempio alcune cose che produce Saez Getter, ce lo diranno dopo, sono contenuti nei televisori OLED che vendono Samsung ed LG, oppure addirittura rifornisce gli acceleratori di particelle. C'è della tecnologia italiana prodotta a Lainate negli acceleratori di particelle, pensate un po', che ci sono al CERN di Ginevra. Oppure nelle leghe a memoria di forma riesce a rifornire le applicazioni medicali come stent, valvole cardiache, clip ossee o anche i nuovi smartphone. Questa azienda ha un giro d'affari di circa 180 milioni di euro e, pensate, un EBITDA pari al 20%. Oggi ne parliamo col suo amministratore delegato, che è Massimo Della Porta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho detto bene? Ha detto bene, ha fatto un riassunto molto accurato. Quindi la sua azienda, che cosa fate voi per il CERN di Ginevra? Noi facciamo delle pompe per l'ultra altro vuoto, quindi sostanzialmente dei sistemi di pompaggio che si basano sulla tecnologia getter e che servono a portare il vuoto nell'ambito della camera dove appunto le particelle vengono accelerate ad un livello pari a 10 alla meno 11, quindi sostanzialmente un livello di quasi totale assenza di particelle residue, con la finalità di evitare delle collisioni incontrollate tra le particelle accelerate e quelle residue. Questo è nell'ambito dei laboratori di prova. Poi ci sono anche degli acceleratori che generano delle radiazioni e sono utilizzati nelle terapie contro il cancro. Corretto, l'acceleratore di particelle, in particolare il sincrotrone, ne abbiamo uno qui a Trieste, non noi ovviamente, parlo di noi italiani, molto famoso, che è l'Elettra. L'Elettra genera della luce sostanzialmente, e questa può essere sotto forma di raggi X ad alta densità, e questa può essere utilizzata sia per effettuare delle mammografie piuttosto che delle appunto radiografie ad elevatissima accuratezza, che per effettuare della terapia oncologica. E questo è un trend che negli anni futuri andrà via via diciamo incrementandosi, con una sorta di miniaturizzazione di questi dispositivi, di questi acceleratori di particelle, in particolare i sincrotroni, che per noi rappresentano peraltro un'ottima opportunità. Infatti circa 35 milioni di fatturato sui vostri 180. Di queste cose ne parleremo ancora, sono cose molto affascinanti, ma ora ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Massimo Della Porta, che è l'amministratore delegato di Saes Getter, azienda quotata in borsa a circa 180 milioni di euro di fatturato. Spiegavamo prima che sono nati per fare i getter, cioè quegli apparecchi che generano il vuoto nel tubo catodico dei televisori, e oggi fanno una serie di cose che sono di assoluto fascino. Prima parlavamo degli acceleratori di particelle e del contributo che loro danno coi getter. Un'altra cosa che loro fanno sono i polimeri funzionali, cioè i materiali che interagiscono con l'ambiente esterno e funzionano come getter. Allora, i polimeri funzionali sono una categoria appunto di materiali plastici, e si tratta di appunto polimeri che noi, attraverso una tecnologia che si riconduce alle nanoparticelle, quindi ai materiali nanostrutturati, possiamo funzionalizzare in varie maniere. Una prima maniera è quella di inserire delle nanoparticelle all'interno del polimero, e queste nanoparticelle evidentemente conferiscono al polimero la funzione per la quale le particelle sono state progettate. Questo può essere assorbire, può essere anche rilasciare dei gas, può essere modificare il colore del polimero, quindi fare da sensore. I principali impieghi di questi polimeri con particelle disperse al loro interno sono la cattura, l'assorbimento dell'umidità che permea all'interno dei dispositivi elettronici, in particolare dei display di nuova generazione, gli OLED, che sono molto sensibili all'umidità, all'acqua, poiché gli strati organici di cui sono composti vengono corrosi dall'acqua. Ma infatti basta che si spruzzi anche un detergente sullo schermo di questi televisori e cambia l'immagine fin quando non si è asciugato. Certo, ma io parlo diciamo di acqua che entra all'interno e lo danneggia in maniera irreversibile. Ah, quindi certo, l'acqua dell'umidità dell'atmosfera. Corretto, l'umidità atmosferica. Una seconda maniera di utilizzare questa tecnologia è quello di inserire non propriamente nelle plastiche, ma realizzare una sorta di vernici, mi consenta un termine semplice, delle lacche, un materiale che è depositabile su una superficie, inserire queste nanoparticelle e una volta sviluppata questa lacca andare appunto a ricoprire con delle tecnologie ovviamente disponibili sul mercato dei film, ad esempio il classico Domopack che usiamo tutti a casa per identificare di cosa si sta parlando, che viene ricoperto da uno strato sottile di queste lacche, e grazie a questo strato sottile comincia a interagire con l'atmosfera che lo circonda. Ancora una volta può assorbire, può rilasciare un gas, può cambiare colore e quindi può essere utilizzato per fare che cosa? Per andare a realizzare il cosiddetto active packaging. Ah, che è in forte crescita, perché poi risulta che siccome bisogna conservare gli alimenti per più tempo e non si può più intervenire con i conservanti perché l'Unione Europea li vieta, c'è bisogno di una sorta di packaging intelligente che ne allunghi la durata. Oltretutto questo ha anche dei riflessi sul prezzo e sui vantaggi che ne ha la grande distribuzione. È una tendenza mondiale quella. Corretto, ed è la ragione per la quale recentemente Saes si è diversificata in questo settore del packaging avanzato attraverso l'acquisizione di un'azienda, la Metal Vuoto, un'azienda vicino a Milano, a Roncello, che appunto dispone delle tecnologie per deporre le nostre lacche. Quindi insieme evidentemente andremo a portare sul mercato delle plastiche estremamente avanzate. E mi permetta di dire, oltre a migliorare le caratteristiche, la durata, ovviamente la conservazione dei cibi, noi possiamo realizzare anche plastiche che possono migliorare in maniera drastica le caratteristiche di ecocompatibilità della plastica, rendendole compostabili e diciamo in qualche anno biodegradabili. Molto interessante. Questa forse è una delle aree a crescita più veloce tra le varie aree del vostro business. Ma certamente sì, anche perché l'azienda che è stata acquisita fa già 15 milioni di fatturato, opera nel settore del food packaging e l'intenzione è quella, attraverso prodotti molto innovativi, di farla crescere molto rapidamente. In realtà abbiamo anche un altro settore che lei ricordava prima, che crescerà molto rapidamente, che è quello delle leghe a memoria di forma. Ecco, ci spieghi, visto che abbiamo pochissimo tempo e fra poco devo anche lanciare una scheda su di voi, ci spieghi che cosa sono le leghe a memoria di forma e a che cosa servono? Sono materiali metallici in grado di essere educati ad effettuare un cambiamento di forma. Questo è un processo che richiede profonde conoscenze e può essere utilizzato in due maniere: per realizzare dei materiali super elastici, ovvero che tornano sempre alla forma originale, e in questo caso vengono applicati come stent, come valvole cardiache, come clip osse all'interno del nostro corpo, perché questo materiale ha elevate caratteristiche di biocompatibilità. Quindi siete molto presenti nel settore biomedicale. Comunque, su Science Getter ascoltate questa scheda. Pioniere nello sviluppo della tecnologia Getter, il gruppo Science Getter è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali. In oltre 70 anni di attività, le soluzioni Getter sviluppate da questa azienda, che ha sede a Lainate, alle porte di Milano, hanno sostenuto l'innovazione tecnologica nelle industrie dell'information display e dell'illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e nell'isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sottovuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Oggi Science Getter ha una posizione di leadership nella purificazione di gas ultrapuri per l'industria dei semiconduttori e high-tech. Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, Science Getter ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, in particolare quello delle leghe a memoria di forma, una famiglia di materiali caratterizzati da superelasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite se sottoposti a trattamento termico. Queste speciali leghe, che oggi trovano principale applicazione nel comparto biomedicale, si adattano perfettamente anche alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale, domotica, industria del bianco, elettronica di consumo e settore automotive. Nel 2015 il gruppo SAES, quotato alla Borsa di Milano, ha generato un fatturato netto consolidato pari a 166 milioni di euro, in crescita del 26,1% rispetto ai risultati del 2014. Il fatturato complessivo nel 2015 è stato pari a 174,1 milioni di euro, in crescita del 25,3% rispetto ai risultati del 2014. L'EBITDA è sempre attorno al 20% del totale, un risultato da record. Rieccoci, dottor Dalla Porta, senta, voi siete una delle aziende manifatturiere a maggior valore aggiunto tecnologico che esistano in Italia e questo è per noi un vanto e anche una dimostrazione di quanto sia importante il manifatturiero in Italia. Ma mi dice, visto che abbiamo ancora poco tempo, che cosa comporta per voi essere in Italia e perché ci siete e perché ci rimarrete? Ma noi storicamente siamo cresciuti qui in Italia e i laboratori centrali sono sempre stati in Italia. Chiaramente un'azienda che cresce molto per crescita organica attraverso sviluppo interno di conoscenze. Siamo molto contenti peraltro di tutto questo, perché in Italia abbiamo, ad esempio, proprio citando la chimica organica, credo che l'Italia abbia una delle più antiche e profonde scuole di chimica organica al mondo, e quindi per noi è stato abbastanza facile costruire una squadra, un team. Voi siete un'azienda sia meccanica sia chimica? Fondamentalmente oramai siamo un'azienda più chimica che meccanica. Benissimo. E poi voi avete 110 ricercatori qui in Italia, che sono la chiave del vostro successo, oltre che circa 4 degli 11 stabilimenti. Corretto. E quindi è anche importante che la produzione sia vicina a dove avviene la ricerca, perché poi c'è anche una questione di know-how e di scambio di competenze che magari non sono codificate sulla carta, ma che si stratificano nel tempo. Lei ha colto un punto fondamentale, che è la ragione per la quale abbiamo i 4 stabilimenti in Italia. La nostra logica strategica è quella di sviluppare, lanciare industrialmente qui in Italia e poi, quando il prodotto non diviene commodity, diciamo, trova un'espansione su mercati esterni, allora andare a produrre all'estero. Ecco, purtroppo lo spazio è tiranno e ci sarebbero un sacco di cose da dire su un'azienda così e su questi temi, quindi io mi auguro di avere in futuro ancora ospite il dottor Della Porta, ma adesso dobbiamo chiudere. La ringrazio, dottore. Io ringrazio lei. Arrivederci alla prossima trasmissione di Fabbrica 2.4, sabato prossimo, ore 14.